all'1.35 circa di Capossela. Per me quella è la canzone da bar. Quello è il bar. E lì me lo immagino. Me lo immagino con un bancone un po' grande, non tanto illuminato, con un sacco di alcolici esposti, un po' di ciarpame in giro. Ciarpame anche divertente, un po' kitsch. Con uno spazio per il gruppo che suona, mal pagato, abbastanza grande, spazioso, anche con gente che balla. Sì, sì, no, quello proprio è... Quello per me è il bar. Per dire, scusa, adesso la butto in vacca, ma io l'altra sera mi sono andata al supermercato, l'ho scritto anche a loro, io sono andata a fare la spesa solo perché dovevo comprare alcol da mettere in frigo, poi alla fine sono bevuta una birra, ma ero talmente nervosa che poi ho bevuto solo la birra, l'ho messa lì e basta, non sono riuscita a fare, io volevo leggere, volevo fare cose, volevo vedermi un film, volevo fare cacciara con Gigi, niente, ero, basta, sono andata a letto. Mi sono spenta. No, guarda, ma posso dirci una cosa? Io sono agitata. Sono agitata, ma non da questa cosa qua. Sono agitata molto e sto dormendo molto male per la situazione generale. E ho la sensazione di essere in perenne trattenimento. Per cui non riesco a rilassarmi. Un altro vino bianco per la ragazza. Non riesco, ma adesso non solo per questa chiacchiera, no, da bar. Immagino. Ma cazzo, in generale sono... Cazzo, si può dire sì, perché è una chiacchiera da bar. Sì. E questa cosa mi blocca su un sacco di cose. Cioè, rilassarmi per dire cazzate, per pensare. Per ricordarmi, come se fossi in risparmio energetico. Poi tu mi fai una domanda che richiede un minimo di. Così, spaziare nella tua memoria. E sono in. Trattenuta. E mi sento più vulnerabile, sento che tutto è più appeso a un filo, perché di fatto prima è stata gestita un'emergenza, ma a livello di sistema non è cambiato niente. Quindi uno può tamponare, ma per quanto e fino a quando, a questo punto uno si chiede. Chi gestiva le cose prima è ancora lì. E quindi a marzo ero più tonica, ero un ehi, mi devo occupare della cosa, e quindi con estrema, certo ero in apprensione, però ero più impegnata a capire come occuparmi di alcune cose, no, molto pratiche, però anche gestione familiare, nonne da sistemare, cose. Adesso sono spaventata eccessivo, però sì, sono più in apprensione. E questa cosa mi blocca, mi sento proprio bloccata su un sacco di cose. Hai parlato... No, beh, hai parlato con Veronica, però hai parlato con una Veronica un po' in apnea. E vabbè, magari te ne sei anche accorto, non è che ci conosciamo da tanto, magari non in maniera super approfondita, però sì, un po' in apnea. E quindi sì, un po' in punta di piedi. Un po' ritratta, però ho parlato con un'amica della Fra e della Chiara che di recente rispetto a questo posto si è molto, diciamo, commossa, perché l'ultimo compleanno del Baglio mi ha fatto registrare l'informazione che siano passati 3 anni. Sono stati 3 anni in cui loro hanno fatto un sacco di cose, sono anche diventate mamme, è un'informazione che io rimuovo. Ogni tanto faccio fatica a pensare che sia successo davvero. E quindi, rispetto in particolare al banlieue, cioè, mi sono trovata a pensare di essere molto orgogliosa di loro. Cioè, come amica ho pensato che sono state brave, sono state coraggiose e niente, questo. Fondamentalmente, questo riassume abbastanza il momento. Poi per il resto stai parlando con una persona che vorrebbe guardare un po' più in là dei prossimi 3 giorni, ma che non ci riesce perché non si riesce, perché probabilmente non sono l'unica che non ci riesce, quindi sono un po' con la testa sott'acqua. E io sono tendenzialmente una persona abbastanza entusiasta, non sono una persona necessariamente negativa. E non sono negativa, cioè non sono in tout court, in un momento di grande pessimismo, però è come se fossi in un'attesa forzata, mi sento messa in stand-by. E questa cosa non mi piace per niente, perché mi sembra poi che non riesco a quagliare, non riesco a buttarmi nelle cose che mi piacciono, senza dover avere necessariamente un grande progetto davanti, o anche sì o anche no, però non riesco a avere neanche la tranquillità di soffermarmi su quello che viene dopo. Ma infatti è quello che in questo momento io non riesco ad essere sufficientemente tranquilla da dire mi ritaglio comunque quello spazio inteso come tempo, come fisico, qualsiasi cosa, per portare avanti, fare comunque quella cosa che... Mentre a marzo riuscivo, anche nella più claustrofobica delle situazioni, quando era tutto chiuso, forse anche avere la concentrazione per permettersi di a leggere, una cosa molto banale. E adesso non ce l'ho. E quindi o fai la falena che sbatte, o fai l'opossum che si immobilizza. Dal regno animale, un po' sono le due immagini. Quindi, cioè, Veronica adesso è così. Ed è un po' in apprensione, faccio come la vecchia zia che chiama per sapere... Tutto a posto? Stai bene? Ma mi devi dire qualcosa? No, volevo assicurarmi che fosse tutto a posto.